Cuore e Denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Eccoci qua, buona giornata a tutti. È giunto il momento, Nicoletta, di salutarlo questo 2015. E dai, si chiude e si inizia. Si chiude una porta, si apre il portone, speriamo che sia così. Noi lo accompagniamo quest'anno insieme alla porta nel migliore dei modi, pronti ad accogliere un anno nuovo che speriamo sia luminoso per tutti i nostri ascoltatori, da qualsiasi parte lo si voglia guardare. Soprattutto per il cuore, ma anche per i denari, perché pure quelli sono importanti. E partendo proprio dai denari, anche in quest'ultima puntata dell'anno, l'anno che si chiude ci lascia anche un bilancio dal punto di vista finanziario, per cui per chi si aspettava che oggi parlassimo del cenone di Capodanno e di quanto gli italiani spenderanno per imbandire la tavola stasera, in realtà li deluderemo un po', perché in realtà faremo un altro tipo di bilancio e daremo un'altra occhiata in prospettiva al 2016. In avvio di trasmissione cercheremo di trarre le somme insieme ad un esperto su quello che è successo sui temi principali di Piazza Affari. Ieri è stata l'ultima giornata di contrattazioni per la borsa italiana, c'è un bilancio molto positivo perché Piazza Affari chiude l'anno con un rialzo di quasi 13 punti percentuali ed è in assoluto la miglior piazza d'Europa. Partiremo da questa buona notizia, ma non parleremo solo del bilancio di Piazza Affari, guarderemo anche a tutte quelle voci del nostro bilancio familiare che ci toccano molto da vicino, e con il 1° gennaio ci saranno delle novità, fra nuove bollette, novità che riguardano il mondo bancario, le pensioni, la casa. Faremo un punto generale della situazione. E faremo bilanci anche per la parte del cuore, che lo si vogliono, un anno si chiude ed inevitabilmente si tirano le somme di quello che abbiamo fatto, di quello che non si è riusciti a fare, delle occasioni perse, della fatica, ma anche delle soddisfazioni. Anche voi forse state facendo questo bilancio, e dato che è un'operazione utile ma un po' complessa, ci faremo dare una mano dai nostri esperti per evitare di cadere nella trappola, no, classica, di vedere o tutto rosa o tutto nero. A proposito di colore, qual è il colore che rappresenterebbe meglio l'andamento del vostro 2015? 800 24 0024, noi restiamo con voi e quindi aspettiamo le vostre telefonate. La mia fidanzata milanese non è donna di pretese, pensa sempre al cia cia cia, non le importa niente dei milioni, vuole solo buone azioni della borsa di Milano. Breda, Eridania, Iri, Mediobanca. Chissà se con l'anno nuovo avremo anche una colonna sonora diversa per commentare i temi finanziari. Questa è una canzone che ci stiamo trascinando da un sacco di tempo, ci piace sempre, ma in realtà poi tutte le società indicate dalla borsa del cia-cia-cia praticamente non sono più quotate, Mediobanca a parte. Allora, si è chiuso un anno finanziario decisamente movimentato, come in verità stiamo vedendo da diversi anni a questa parte. Le azioni delle banche centrali sono state il tema in assoluto in primo piano, dal rialzo dei tassi di interesse operato in qualche settimana fa dalla Banca Centrale Americana, dal nuovo allentamento monetario deciso invece dalla Banca Centrale Europea. Poi abbiamo avuto il risveglio delle tensioni internazionali che naturalmente hanno preoccupato tutti, e anche questo è un tema a cui guardano gli investitori. C'è stato il crollo dei prezzi delle materie prime, il grande tema del momento è il tracollo del prezzo del petrolio, e poi insieme al forte rallentamento dell'economia cinese sono stati i fatti finanziari in primo piano che hanno messo in moto una forte turbolenza fra le borse dei paesi emergenti. Ieri Borsa Italiana ha diffuso il bilancio annuale sull'andamento del mercato azionario italiano, e tutto sommato possiamo dire che Piazza Affari se l'è cavata alla grande, più 12,7% circa. Questo è il bilancio di chiusura definitivo per il FTSE MIB, il principale paniere di Piazza Affari, anche se il migliore in assoluto è stato il segmento Star, che ha segnato un progresso di circa il 40%. Allora, un primo focus su questo tema lo facciamo nella prima parte di Cuore Denari stamattina per tutti gli appassionati di mercati finanziari, che in questo anno, tra l'altro, Nicoletta, ci hanno accompagnato anche nella nostra operazione di grande successo insieme a tante altre che abbiamo fatto, che è stata Investire Informati. Siamo andati per tante settimane a scuola di risparmio, speriamo di aver dato informazioni utili ai nostri ascoltatori, che poi alla fine in molti purtroppo chiudono l'anno anche con il nuovo caso di risparmio tradito, che vede come protagoniste le famose quattro banche delle quali abbiamo parlato a lungo. Tanto. Esatto, e probabilmente sarà anche uno dei temi dai quali ripartiremo nel 2016. Comunque stamattina, per fare un punto su Borsa Italiana bilancio 2015, abbiamo interpellato Pietro Di Lorenzo, amministratore unico di SOS Trader, che salutiamo. Intanto buongiorno e soprattutto buon anno, dottor Di Lorenzo. Buongiorno, buon anno e grazie per l'invito. SOS Trader è un portale finanziario, è dedicato, come troverete nella definizione proprio sullo stesso sito, agli investitori part-time e non professionisti, e intendendo come non professionisti coloro i quali svolgono intanto come attività primaria un'attività produttiva diversa naturalmente dal trading, quindi dalla compravendita di titoli e obbligazioni, ma che comunque desiderano ugualmente investire nel mercato finanziario. Ti posso raccontare un aneddoto sul dottor Di Lorenzo? Volentieri. Sai che io sono molto curiosa. Lui ha fondato questo sito tanti anni fa, all'inizio del 2000, e mi ha detto che sono stata la prima giornalista ad intervistarlo per la TV del Sole 24 Ore. Me lo ha ricordato stamattina. Chissà se gli ho portato fortuna. Di Lorenzo, che ci dice? Assolutamente sì, mi fa piacere chiudere l'anno con voi e questo Amarcord che in qualche modo mi fa tornare indietro di 16 anni. E insomma, il ringraziamento anche a lei che ha avuto fiducia in me 16 anni fa. È bello ritrovarsi dopo tanti anni. Infatti, evidentemente, no, poi abbiamo fatto le cose bene con passione. Esatto, anche perché non è certamente un momento per chi, non è un momento, non dico o positivo o negativo, non è un motivo particolarmente incoraggiante per chi non lo conosce molto bene, quello che riguarda il mercato finanziario, che viene ancora considerato in tutto il suo complesso come un mondo difficile da praticare, no dottor Di Lorenzo? Noi tante volte quando così cerchiamo di spiegare ai nostri ascoltatori le modalità per investire in borsa, cercando di far capire che si tratta tutto sommato forse la modalità migliore, perché investimento in borsa significa investire su qualcosa che deve rispondere al mercato ogni giorno del proprio comportamento, parlando naturalmente delle aziende quotate, quindi è un mercato estremamente trasparente, un po' meglio chiaramente delle obbligazioni subordinate piazzate direttamente alla clientela da parte delle banche. Eppure insomma questa reputazione, tutto il mercato nel suo complesso, fa ancora un po' di fatica a farla, a trasmetterla tra il pubblico indistinto. Che ne dice lei proprio sulla scia anche di questa sua esperienza? Poi andremo al tema che gli ascoltatori aspettano e al bilancio di Piazza Affari per il 2015. Sì, è assolutamente vero, c'è una sorta di demonizzazione che in qualche modo scoraggia anche chi è alle prime armi e cerca delle opportunità sui mercati, avvicinarsi su questo mercato che è tanto affascinante quanto un po' demonizzato. A mio modo di vedere, come tutto, ci sono rischi e opportunità, quindi opportunità per chi è in grado di affrontare i mercati con consapevolezza, con cultura finanziaria e con controllo del rischio. Grandi rischi e quindi da tenere sotto controllo per chi invece si lancia in maniera avventata alla ricerca di guadagni facili e rapidi. Quindi come tutto nella vita ci sono le due facce della medaglia, premi per chi è in grado di trarre opportunità dai mercati e invece delusioni per chi, come diceva lei, soprattutto in questi ultimi giorni è rimasto fortemente scottato da prodotti finanziari poco trasparenti, ma probabilmente acquistati più sull'onda della promessa di rendimento, che era un po' più esattamente che su una base di un processo razionale, a volte anche su un processo di fiducia che si crea. Aspettate che mi stanno fischiando un po' le cuffie. Vedi, stamattina devo abbassare il microfono. Quando fischiano le orecchie qualcuno ci pensa, e a noi le cuffie vuol dire che ci pensano ancora di più. In tanti. Allora 800 24 00 24, anche se è l'ultimo giorno dell'anno, noi siamo in diretta, quindi potete intervenire commentando se volete i fatti finanziari dell'anno. Faremo un commento complessivo sull'andamento di Piazza Affari in questo 2015. Se volete interagire con noi, il numero verde è sempre a vostra disposizione. Allora torniamo alla chiusura dell'anno per la borsa italiana: più 12,7% per il principale paniere di Piazza Affari, il FTSE MIB. Lo metto a confronto con gli altri indici europei. Parigi chiude l'anno con un rialzo del 9,8%, Francoforte più 9,6%, c'è la scaletta dei migliori e dei peggiori oggi sulle Sole 24 Ore. Tokyo è andata bene, più 9,1%, New York è piatta, Londra negativa per il 4,5%, Madrid perde il 6,2%. Indovina un po', Nicoletta, qual è la piazza peggiore in assoluto d'Europa, quella di cui abbiamo parlato tanto, a un premier affascinante che abbiamo, di cui le cui azioni le abbiamo commentate spesso. Sì, siamo andate tante volte in Grecia a parlare dell'attività di, ci piaceva anche, di Tsipras. Esatto. Atene meno 26%. Milano, dottor Di Lorenzo, commentiamo subito il dato che porta Piazza Affari in cima alla graduatoria delle migliori piazze internazionali. È stato un anno pieno di consenso per il mercato azionario italiano. Perché? Perché c'è maggiore fiducia verso la piazza italiana, o perché per questa fuga dalle obbligazioni, visto che hanno i rendimenti a tracollo, la liquidità è finita necessariamente verso le azioni per la fuga appunto dalle obbligazioni? Lei come commenterebbe questo andamento? Sì, direi una serie di elementi. In primis è bene rimarcare che il quarto anno consecutivo positivo per la borsa italiana e questo senz'altro fa tornare il sorriso su risparmiatori delusi da diciamo un ultimo decennio abbastanza fallimentare per il nostro destino. Ricordo che nonostante il quarto anno consecutivo noi siamo a circa il 50% dai massimi toccati nel 2007 a 45.000 punti contro le principali piazze mondiali come il DAX tedesco piuttosto che le borse americane, quest'anno hanno toccato i massimi assoluti. Quindi siamo ancora sotto di quanto rispetto ai massimi da quella volta? 50%, adesso siamo a circa 23.000 punti e il massimo toccato a maggio 2007 è 45.000 punti. Quindi stiamo recuperando faticosamente un gap assolutamente grande rispetto alle piazze finanziarie, però registriamo che è il quarto anno positivo. A che cosa è dovuto? A una serie di elementi. In primis, a mio modo di vedere, alle manovre di politica monetaria della BCE, che in qualche modo favoriscono diciamo, l'afflusso di capitali sui mercati equity, e poi a un ritorno di fiducia su una serie di temi sul piazza affari. Ci sono anche titoli che hanno fatto performance a tre cifre come i tacimenti in virtù di, in questo caso, di operazioni straordinarie, c'è in corso un'OPA a 10,60 euro. Un'offerta anche pubblica di acquisto, tanto per tradurre ai nostri ascoltatori che non hanno molta confidenza con il gergo finanziario di cosa stiamo parlando, quindi operazioni straordinarie, più 107% per i tacimenti nel 2015, in assoluto il miglior titolo di Milano. Esattamente, e poi ci sono una serie di storie che sono state riscoperte, come Anima Holding, era un titolo appartenente al settore, diciamo all'indice principale, che è tornato al centro interesse del mercato, più 88%, ma anche titoli bancari come Popolare Milano, che segna un più 71%, e questo potrebbe essere anche un input per il 2016. Mi aspetto che le banche popolari, in virtù di un cambiamento che saranno obbligate a fare trasformandosi in SPA, saranno uno dei temi più interessanti del 2016 in virtù di aggregazioni. Io mi aspetto in questo settore, perché la logica di cambiare la forma in popolari da popolari SPA, a mio modo di vedere, è proprio legata a spingere queste popolari ad aggregarsi tra di loro, e quindi operazioni straordinarie in vista per il 2016 che potrebbero premiare gli azionisti e quindi Visto abbiamo già gettato l'amo, il ponte verso l'anno prossimo, e già Di Lorenzo ci ha già suggerito quelli che dovranno essere i temi da tenere sotto controllo. Peraltro le banche, nel bene o nel male, sono sempre le aziende che movimentano di più in piazza affari, proprio perché il listino milanese è largamente esposto nel settore finanziario, per cui quando queste hanno un andamento o molto positivo o molto negativo, trascinano in maniera molto positiva o molto negativa appunto l'intero indice, proprio perché sbilanciano moltissimo il paniere. Il 2015 si chiude con 356 società quotate sulla borsa di Milano, erano 342 un anno fa, ci sono state molte IPO, molti nuovi debutti. Sicuramente il debutto più importante di quest'anno è stato quello di Poste Italiane, che è stata l'operazione di maggior dimensione grazie ad una quotazione che ha raccolto 3 miliardi di euro, risultando non solo la più grande operazione italiana ma anche la maggior IPO degli ultimi 10 anni, una delle più importanti in tutta Europa. In tutto questo debutta il 4 gennaio, il primo giorno di contrattazioni per Piazza Affari, sarà l'insegna del debutto dei motori di Ferrari. Esatto. Allora facciamo una cosa, a proposito di motori, sentiamo cosa succede sulle strade italiane, poi con Di Lorenzo commentiamo anche questa operazione qua. A tra poco. Cuore e denari. Arriva il nuovo anno e si porta dietro un carico di novità per famiglie, imprese e professionisti. Noi vedremo quali sono le principali novità che ci aspettano dal prossimo 1 gennaio. Lo faremo con Giovanni Parente, che è già collegato con noi da Roma. Giovanni, buongiorno, buon anno anche a te. Buongiorno, buon anno. Eccolo. Ciao, qua. Ciao Giovanni, auguri. Squillante come sempre, abbiamo una batteria di annunci da fare questa mattina, quindi il signorino buongiorno, più che la signorina buonasera, lo faremo fare a Giovanni stamattina. Prima però Giovanni deve avere ancora qualche minuto di pazienza da ascoltare con noi qualche altro commento sull'andamento dei mercati finanziari. Abbiamo detto quello che è successo in questo 2015 e abbiamo già dato un'occhiata ai temi da tenere sotto osservazione almeno nella prima parte del 2016. Sul tema bancario abbiamo già fatto qualche commento. momento. Poi Pietro Di Lorenzo, SOS Trader. Abbiamo detto, dopo che c'è stata l'IPO di Poste Italiane a Piazza Affari, che è stata un po' tiepidina, molto importante in termini di dimensioni, un po' tiepidina come accoglienza da parte del mercato, anche se poi l'amministratore delegato Caio ha detto in realtà il mercato ha riconosciuto il prezzo che noi abbiamo stabilito per questa quotazione, per cui si sono ritenuti soddisfatti. Ma il 4 gennaio debutta Ferrari a Milano. Che cosa ci dobbiamo aspettare? Sì, è il sogno un po' di tutti noi possedere un pezzettino di Ferrari in portafoglio. Quello che succederà è che i possessori delle azioni Fiat riceveranno un'azione Ferrari per ogni 10 Fiat che detengono in portafoglio. Quindi chi detiene oggi, o meglio ieri, le Fiat si troverà due titoli in portafoglio, e quindi se hai per esempio 100 Fiat ti troverai 100 Fiat a un prezzo naturalmente decurtato del valore di Ferrari e 10 azioni Ferrari. A mio modo di vedere, cioè questa operazione avverrà in automatico oppure bisognerà dare un'adesione volontaria? Perché è un tema interessante che ci sta lanciando Di Pietro, e che magari varrà la pena forse approfondire proprio all'inizio dell'anno, spiegando la dinamica di questa modalità di investire in Ferrari. Avverrà automaticamente o bisognerà dare un'adesione? No, avverrà automaticamente in questo modo. Si prenderà il valore di Ferrari, che è circa 42 euro, e si decurterà dal prezzo di Fiat, di chiusura di Fiat, che è stato 12,92, il valore di Ferrari, quindi 4,20. Quindi ci si troverà con 10 azioni Fiat a un prezzo intorno agli 8,65 e un'azione Ferrari a un prezzo di 4,25 euro, intorno ai 4,20, 4,25. Quindi automaticamente ci si troverà in portafoglio con questi due asset, e non bisogna fare nulla, semplicemente poi negozieranno in continua come due titoli, diciamo, normali. E mi aspetto qui probabilmente una reazione entusiasta all'inizio, così come è avvenuto per la votazione a Wall Street. A Wall Street, sì. E poi un consolidamento che in qualche modo... un assestamento. No, io la ringrazio per averci spiegato in maniera così semplice cosa farà, perché sono già certa che qualche ascoltatore a sorpresa, detentore di azioni Fiat, si troverà in portafoglio anche le Ferrari nella totale inconsapevolezza di Lorenzo, per cui quantomeno spieghiamo probabile. Di aver fatto un servizio questa mattina, ci ritorneremo prossimamente, perché io non ho onestamente trovato sui giornali italiani negli ultimi tempi tantissime spiegazioni fatte in questo modo, appunto, di quello che avverrà con la quotazione di Ferrari. Poi magari mi sono persa qualcosa io, sono stata un po' superficiale, ci sta tutto, però quantomeno ecco, che non avvenga, speriamo, tutto questo a sorpresa. Poi magari sarà una bella sorpresa, perché le quotazioni prenderanno il volo e avranno anche un buon rendimento, però l'importante è capire che chi ha azioni Fiat in portafogli in questo momento, il 4 gennaio contestualmente si troverà anche in automatico le Ferrari. Con che cosa vogliamo chiudere Di Lorenzo? Adesso devo andare a tutti gli altri temi di interesse economico per gli italiani, ma tra l'altro non abbiamo raccontato, già gli ascoltatori ce lo contestano, vabbè, diteci anche qual è stato il peggior titolo in assoluto a Milano. Credo che MPS, Monte dei Paschi, esatto, ancora una volta si porti questo fardello. No? Sì, meno 35%, nonostante un alto aumento di capitale, una storia abbastanza complessa e magari poi con più calma si potrebbe analizzare. È un tipico caso nel quale il risparmiatore, forse in maniera un po' inconsapevole, sta continuando a acquistare mediando i prezzi a ribasso, con la speranza di uscire fuori con le ossa meno rotte di quanto già. In realtà non è una pratica che io consiglio, questa di mediare i prezzi. Ma insomma è una storia un po' complicata, un po' complicata. Benissimo. Invece senta Di Lorenzo, poi la saluto definitivamente. Ci sono molti segmenti molto vivaci a Milano, e sono quelli che rappresentano soprattutto le piccole società, le piccole capitalizzazioni, che non hanno magari grande riscontro di cronaca, ma che in realtà, per chi punta su questo mercato, ha delle grandi soddisfazioni. Eppure continuano ad essere molto poche le aziende italiane che si quotano e che avrebbero questa opportunità di andare anche su certi mercati un po' più piccoli, proprio per le piccole capitalizzazioni, un mercato che è fatto proprio su misura della piccola e media impresa italiana, ma ancora questo matrimonio non è mai particolarmente felice fra la corporate italiana e il mercato finanziario. Lei che tipo di ragionamento ci può fare su questo aspetto? L'auspicio è che anche il legislatore favorisca, che il mercato finanziario, un accesso al mercato finanziario più semplice, anche sul lato fiscale, sia un po' meno intransigente. Ricordo che se oggi si acquista un'azione Telecom Italia si paga una Tobin Tax se si porta l'azione in portafoglio per più di 2 giorni, mentre se acquisti una Deutsche Telekom questa imposta non c'è. È una sorta di svantaggio competitivo che ti dà la nostra borsa in virtù di questa Tobin Tax, forse pensata in maniera un po' frettolosa, che in qualche modo dovrebbe essere rivisto. Ritengo che il mercato finanziario italiano dovrebbe essere incentivato, il capitale di rischio sia fondamentale per le aziende italiane per crescere, e quindi l'auspicio è che nel 2016 anche il legislatore abbia maggior sensibilità su questi temi e favorisca l'afflusso delle piccole aziende, delle medio-piccole aziende italiane sui mercati finanziari, e favorisca anche il piccolo risparmiatore nell'investimento, soprattutto nel medio-lungo termine, magari dando dei benefici fiscali a chi ha in portafoglio un'azione per un anno piuttosto che per 2 anni, e quindi diciamo sia un socio non tipicamente speculativo, ma un socio che crede nell'azienda e la finanza, diciamo, nel tempo, per avere dei sconti anche in termini di... Sul tema, grazie a Pietro Di Lorenzo. Peraltro segnalo sul tema della Tobin Tax anche l'intervento e l'intervista che Antonella Olivieri, collega del Sole 24 Ore, fa questa mattina sulle pagine del Sole a Raffaele Gerusalmi, l'amministratore delegato di Borsa Italiana, che continua, e non è evidentemente la prima volta che Gerusalmi lo dice, continua proprio a esprimere il suo scontento sull'applicazione della Tobin Tax, che pesa molto sugli scambi italiani e penalizza naturalmente tutti gli investitori, quando originariamente il governo ha pensato di introdurre questa tassazione per limitare l'attività degli speculatori. In realtà è una tassa che è andata a ridimensionare notevolmente anche il trading online, che non viene effettuato solamente da speculatori e da investitori super trasgressivi, ma c'è anche tutta una nicchia di piccoli investitori che magari fanno anche una piccola fetta di reddito personale, di introito appunto personale mensile, grazie all'attività di compravendita sul mercato azionario. Grazie a Pietro Di Lorenzo. Buon anno. Auguri a lei, buon anno. Auguri. A presto. Allora andiamo adesso dal nostro Giovanni. Ci vuoi andare? Sì, è arrivato il momento suo. Infatti. Allora, intanto, oltre al suo momento, è arrivato anche il momento, lo dico agli ascoltatori, di intervenire se vogliono all'800240024. Se volete parlare con noi di questo resoconto generale che faremo di tutte le iniziative che impatteranno sulle tasche delle famiglie, poi io naturalmente stamattina facciamo un piccolo prospetto, una fotografia di carattere generale, e poi mettiamo tutto in agenda e non mancheremo di dedicare puntate specifiche ai singoli punti. Non ci mancano davvero per tutto gennaio le trasmissioni, almeno dal punto di vista dei denari. Nicoletta, io stamattina ho un'agenda già affollatissima. Infatti, Giovanni, allora, oltre a sentire cosa ne pensano gli ascoltatori, se tra l'altro hanno già sentito parlare di un cambiamento, di un aumento, di una nuova legge, di qualcosa che cambierà per le proprie questioni finanziarie, ti chiedo di farci un punto generale della situazione. Da che cosa partiamo? Tu proprio hai firmato nei giorni scorsi sul Sole 24 Ore un decalogo, che così in apparenza non è che sia proprio simpaticissimo a leggerlo, non di raccomandazioni per affrontare meglio il 2016, ma proprio di tutto quello che ci aspetta. Sei partito dalle bollette elettriche e del gas meno care, questa almeno è una buona notizia. Sì, almeno stando alla stima che ha fatto l'Autority per l'Energia, dovrebbe esserci un segno meno nei costi che dovranno essere sostenuti dalle famiglie italiane, perché su una famiglia tipo la bolletta dell'elettricità dovrebbe segnare un calo dell'1,2%, mentre quella del gas dovrebbe ridursi del 3,3%. Si stima che potrebbe esserci risparmi complessivi in un anno per circa 60 euro. Detto questo, insomma, c'è un po' tutto quanto il sistema della tariffazione dei consumi energetici che subisce una rimodulazione a partire dal 1 gennaio, quindi c'è un graduale abbandono della struttura attuale in termini progressivi delle tariffe e degli oneri elettrici, e quindi praticamente c'è un costo a kilowattora che in qualche modo dovrebbe crescere per l'aumentare anche dei consumi. Questo dovrebbe portare in qualche modo ad un nel medio periodo, quindi non immediatamente nel 2016, è bene precisarlo ai nostri ascoltatori, non in termini sempre positivi, però insomma dovrebbe essere in qualche modo agevolato quello che è il consumo della famiglia media. Sì. Ecco, questo è insomma l'obiettivo finale, per non gravare eccessivamente su chi non ha consumi elevatissimi, ma insomma ha consumi nella media che sono quelli funzionali alla vita familiare, insomma, no? Ne abbiamo parlato con Luigi Gabriele dell'associazione Codici molte volte, tra l'altro infatti di Nicoletta anche... stava a ricordare, no, voglio anche ricordare proprio l'ultimo tema che hai affrontato in uno di questi giorni in cui io non c'ero, quello dei maxi conguagli a proposito di bollette di luce e gas, perché ancora continuano ad arrivare alla nostra redazione segnalazioni, lamentele e denunce di questi maxi conguagli che continuano ad arrivare proprio in questi ultimi giorni dell'anno, ma con richieste assurde da parte degli operatori, 2.000, 3.000, 4.000 euro. Ecco, che sono cifre che mettono anche in ginocchio le famiglie, esatto. Le avevamo ben sottolineato infatti, con Gabrieli. E volevo ricordare che si è attivato, anzi si è intensificata l'attività di un tavolo istituito al Ministero dello Sviluppo Economico, ce lo ha raccontato anche ieri, l'abbiamo intervistata per una trasmissione che andrà in onda il 1 gennaio, il sottosegretario allo sviluppo economico Simona Vicari, e noi anche di Cuore Denari intendiamo dar battaglia per tutto l'anno su questa pratica di malcostume che riteniamo che i distributori appunto hanno, per cui vedremo proprio come andrà avanti anche l'attività di questo tavolo al Mise con le associazioni dei consumatori. Abbiamo 30 secondi di tempo, Giovanni, anticipiamo un altro punto che ci piace raccontare, buono per le tasche degli italiani per il 2016, c'è l'addio alla TASI sull'abitazione principale, abbiamo straconfermato quantomeno questo. E sì, insomma, diciamo che cosa volevi dire? E vai. No, infatti, vai. No, diciamo che se ne è parlato talmente tanto che finalmente vedere una legge dello Stato che lo sancisce, è andata ieri in Gazzetta Ufficiale, la legge di stabilità, ecco, dalle parole ai fatti, almeno possiamo dire che questo è un obiettivo centrato. Il 16 giugno 2016 19,8 milioni di proprietari di abitazioni principali non pagheranno più la TASI. Allora, sì, ci fermiamo Giovanni, tutto il resto ce lo dici dopo il giornale radio, abbiamo ancora un sacco di minuti di tempo, a tra poco. Cuore e denari. Perché tutto cambierà, cambierà, per ogni vita che nasce, cambierà, per ogni albero che fiorirà, cambierà. Tutto cambierà. No, tutto no, ma molte cose cambieranno, molti cambiamenti sono previsti per quello che riguarda le questioni di portafoglio e intanto cominciamo con il cambiare anno da stasera. Lasciamo il 2015, ne intraprendiamo un altro di percorso nel 2016, anno bisestile. Vabbè, dai. Presupposto non è proprio incoraggiante, però insomma, e i denari lo sanno bene perché arrivano tante novità, come vi dicevo, un po' sono previste dalla manovra di stabilità, altre misure invece sono collaterali alla grande manovra, appunto la ex manovra finanziaria del governo. Stiamo un po' anticipandovi quelli che saranno i cambiamenti finanziari dell'anno prossimo insieme a Giovanni Parente, collega del Sole 24 Ore, che ripristiniamo da Roma. Giovanni, eccoci. Ma io non sono mai andato via. Bravo, si è ascoltato il giornale radio con noi, ma soprattutto vuole ascoltare la seconda parte della trasmissione. E certo. Farai il Capodanno con il botto tu? Giovanni. No, niente botti per me. Cioè, io sono una sobria festa di Capodanno, ma aspettando il 2016 e brindando e sperando che il 2016 sia migliore del 2015. Mi raccomando, le lenticchie. Ecco, quelle non mancano. L'uva, certo. Le lenticchie, qualcosa di rosso. Senti, va. Giovanni, allora abbiamo raccontato della questione delle bollette. Archiviamo la pratica. Abbiamo già ricordato del fatto che non si pagherà più la tassa sulla prima casa. E va bene. Allora, qua già gli ascoltatori bussano alla porta per chiederci com'è finita la pratica canone TV, perché in particolar modo un'ascoltatrice Anna chiede mi dite qualcosa riguardo di quello che dovrò pagare per la seconda casa che ora non si paga, quindi se uno ha più abitazioni, più dispositivi televisivi deve cercare di capire anche cosa fare, visto che dall'anno prossimo, dalla seconda parte dell'anno, il canone sarà pagato attraverso le bollette, le utenze. Ci puoi fare come dire un po' una fotografia di quello che succederà da questo punto di vista, perché è stato tra l'altro anche il grande tema del dibattito politico dell'anno scorso, questo, tutti a ragionare sull'abbonamento Rai da pagare in bolletta. Sì, allora, che cosa succede? Il canone RAI verrà pagato nella bolletta elettrica. Per consentire un debutto di questa novità viene previsto che praticamente scende a 100 euro, dobbiamo ricordare. Euro, ma questa certo. Discesa a 100 euro dai 113 attuali sarà già da gennaio. Cioè a gennaio lo dobbiamo pagare o no? No, perché il canone praticamente verrà in qualche modo ripartito da giugno 2016 come una voce separata all'interno delle bollette elettriche. Quindi in qualche modo ci sarà una sorta di concentrazione per quest'anno per consentire il debutto, però da giugno a dicembre sarà di fatto ripartito all'interno della bolletta elettrica. Qual è la novità? Attenzione, su questo però diventa importante. La presenza di una TV in qualche modo sarà data per assodata per chi è titolare di un'utenza elettrica. Ecco perché, insomma, chi ha più di una di un'utenza, che magari ha una seconda casa, in qualche modo aspettiamo poi istruzioni precise attuative anche da parte dell'Agenzia delle Entrate in questo senso, sarà chiamato a fare una dichiarazione, ovviamente è un'autocertificazione, esatto. Quindi attenzione a quello che si certifica, perché poi si incorre anche in rischi spiacevoli anche di natura penale quando si certifica il fatto. Falso, all'Agenzia delle Entrate. Saranno esclusi dal pagamento gli over 75 che hanno un reddito annuo inferiore a 6.713,98 euro. Quindi praticamente, ripeto, insomma, questa dichiarazione sembra perché sostanzialmente le utenze di abitazioni diverse dalla prima non sono soggette al pagamento del canone RAI, ma ovviamente insomma, aspettiamo istruzioni dettagliate per capire come gestire poi la situazione delle seconde, chi ha anche terze case. Insomma, in qualche modo si presuppone che chi ha una prima casa abbia un televisore e quindi quel canone lo debba pagare. Certo. Sulle altre, appunto, cioè, bisognerà anche fare una sorta di operazione di trasparenza e dichiarare appunto quando si ha una seconda terza casa, ecco. Infatti, allora, tra l'altro volevo anche dire che sale la platea degli over 75 esenti dal pagamento del canone, esatto. Però dovranno dimostrare di pagare, di avere un reddito inferiore agli 8.000 euro annuali. Nicoletta, volevi dire qualcosa? Volevo leggerti, Vittorio ci manda un messaggio e ci scrive: ho tre contatori elettrici a mio nome nella stessa casa, devo pagare tre canoni RAI. No, che l'utenza sia un canonone. Allora, certo che io sono certa che ne vedremo di tutti i colori con il pagamento del canone in bolletta. Vedremo pure questa che già pronostica il nostro ascoltatore. Giovanni, secondo te? No, allora, questo è questi sono problemi seri, applicativi, e anche per questo ci si è presi 6 mesi di tempo in qualche modo per farla decollare questa novità, perché era obiettivamente impossibile partire da, diciamo, da fine gennaio inizio febbraio con questa novità. Questo servirà in qualche modo farci segnalare quelle situazioni che possono essere particolari, però ripeto, insomma, la novità di fondo è che si paga il canone sull'utenza relativa alla prima casa. Poi immagino che tutto quello che non è prima casa in qualche modo vada anche dettagliato e specificato da altre misure, altri provvedimenti, da provvedimenti che saranno poi attuativi di questa misura del canone RAI, ecco. Allora, un altro messaggio. Sai che a me WhatsApp piace un sacco. Sì, riesco anche a usarlo. Allora, vi scrivo per il canone. Sì. State attenti. Io non ho la TV, tra parentesi, davvero, punto esclamativo. A chi devo mandare l'autocertificazione? Esattamente. Alla RAI, all'Agenzia delle Entrate o alla Società di Distribuzione dell'Energia Elettrica, esatto. Ci scrive Enrico da Bologna. O per non saperne leggere né scrivere, mandiamo questa comunicazione a tutti, così siamo a posto, Giovanni. Allora, io ho la sensazione, ma questo ripeto, insomma, adesso vediamo poi come è, che in qualche modo il canone si paghi a prescindere dalla presenza fisica in un televisore. In qualche modo viene dato come quindi quasi per assodata, cioè, anche se perché hai la tele, esatto, in modalità di fruizione del servizio radiotelevisivo potrebbe anche essere, adesso dico una banalità, potrebbe anche essere attraverso lo streaming via web, quindi in qualche modo si fruisce del servizio pubblico radiotelevisivo. Detto questo, poi la gestione delle autodichiarazioni, delle autocertificazioni andrà segnalata all'Agenzia delle Entrate, ma ripeto, su questo aspettiamo, brancoliamo ancora nel buio, parliamoci chiaro, ecco. Diciamo che la legge di stabilità è andata in vigore, entra in vigore il 1 gennaio, è andata in Gazzetta Ufficiale, quindi i tempi tecnici di adeguamento ci saranno, ecco, e bisogna aspettare i provvedimenti attuativi. Ottimo, allora Giovanni, noi tra poco dobbiamo salutarti, questa super lista dei provvedimenti economici che ci riguarderanno tutti non riusciamo a farla, ma come ho già promesso prima noi prenderemo punto per punto e approfondiremo ogni tema in singole puntate, però magari un flash sulle misure che riguarderanno le famiglie ce lo puoi fare. Per esempio, è importante perché arrivano i congedi parentali raddoppiati per i neopapà e poi arriva la card sconti per le famiglie numerose. Magari un piccolo focus su questi due temi, perché a noi le famiglie stanno molto a cuore. Se ce lo puoi fare, te ne saremo molto grate. Assolutamente sì. Ecco, sotto il primo profilo, sotto il primo punto di vista, il congedo parentale obbligatorio raddoppia, e quindi praticamente per il padre, e quindi da un giorno sarà possibile fruire di due giorni obbligatori a partire appunto dal 2016. Viene rifinanziato anche il bonus babysitter, e in qualche modo c'è una maggiore attenzione anche per quanto riguarda la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Poi, come dicevate giustamente voi, arriva questa nuova carta sconto questa carta famiglia destinata ai nuclei che hanno almeno tre figli minori a carico, e consentirà in qualche modo sconti sull'acquisto di beni e servizi, riduzioni tariffari, e sarà rilasciata dai comuni a chi avrà determinati requisiti ISEE. Fatemi ricordare una cosa, sì. Perché ieri l'INPS ha rilasciato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica. Proprio DSU. Ieri l'ha fatto, esatto. Così ce l'ha messo lì sul piatto. No, è perché entra in vigore da domani, quindi insomma in qualche modo ci sono nuove parametri. Proprio sul filo di lana. Esatto, dal 1 gennaio 2016 c'è una nuova, c'è un nuovo formato della dichiarazione sostitutiva unica, che è la dichiarazione necessaria per poter poi richiedere il calcolo dell'ISEE. Insomma, tra le novità va segnalato anche, come riporta anche oggi il Sole 24 Ore e come è riportato adesso sul sole24ore.com, che debuttano anche le carte prepagate con IBAN, quindi insomma andranno segnalate anche quelle nel campo dedicato appunto. Perfetto. Ai rapporti finanziari. Mamma mia, quanti temi, quanti approfondimenti da fare a gennaio, mi frigge già il cervello. Guarda, vabbè, per fortuna abbiamo Giovanni Parente che ci dà una mano. Quando rientri al lavoro, così tanto per in maniera disinteressata chiedo, Giovanni? Guarda, dopo il 6 o prima, o dal 4 no, ci no, sei? Io dal lunedì ci sono, quindi insomma... Preparati, perché ho dei grandi progetti per te. Grazie. Ho delle grandi opportunità professionali per te, guarda. Ah, beh, adesso si chiamano così, va esatto. Bene. Esatto, intanto buon anno. Auguri, di cuore, Giovanni. Grazie a voi, buon anno a voi e ai vostri ascoltatori. Bene. Allora, si cambia. Cambiamo. Si cambia argomento, ma prima andiamo a prendere la nostra consueta boccata d'aria. Sì, perché è tempo della nostra rubrica L'aria che respiriamo. In linea con noi, pronto a portarci in giro per l'Italia, il dottor Mauro Mocci dell'Associazione Medici per l'Ambiente. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. E intanto un buon vento ha portato qui in studio due grandi amiche di Cuore Denari, Alessandra Faiella, comica, attrice, scrittrice. Mi fermo qua. E ciao Ale. Più ne metta. Ciao. E insieme a lei Rossella Bellantuono, cantante, cantautrice, vocal coach. Buongiorno. Benvenuta a tutti. Rossella. Vi state preparando a un Capodanno con il botto? Sì, stasera facciamo il botto e devo dire che l'abbiamo fatto davvero, perché sono esauriti tutti i posti al Teatro Verdi, quindi siamo molto felici. E ancora continuano a telefonare, non so se metteranno degli strapuntini o degli sgabellini, qualche sgabellini laterale, non se ne possono mettere più di tanti per motivi di sicurezza, però insomma ci arrangeremo e siamo molto contente. È un Capodanno nuovo e antico nello stesso tempo, perché il Teatro Verdi è un teatro storico di Milano, però erano 20 anni che non faceva la festa di Capodanno, ma adesso è cambiata la direzione artistica. C'è un amico che è Andrea Lisco, che è un giovanissimo regista e appunto direttore artistico, e quindi si prevedono grandi cambiamenti. Vedi, aria nuova, aria per l'appunto nuova. Invece noi abbiamo sempre la stessa aria, ma abbiamo anche in linea con noi il dottor Francesco Aquilar. Buongiorno dottor Aquilar. Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, buona fine e buon principio, come diciamo noi a Napoli. Presidente dell'Associazione Italiana di Psicoterapia Cognitiva e Sociale, che starà con noi insieme ad Alessandra Faiella e Rossella Bellantuono in questa seconda parte di trasmissione, in cui proveremo a fare un po' un bilancio dell'anno che si chiude e dell'anno e propositi per l'anno che verrà. Infatti abbiamo invitato i nostri ascoltatori ad abbinare un colore a questo 2015 che si sta chiudendo. Intanto non possiamo dire che colore alla nostra aria qua è un po' grigetto, ma a Napoli, dottor Aquilar, che aria tira? A Napoli tira un bellissimo sole e siamo pronti per i nostri botti e le emozioni di Capodanno, di cui parleremo fra poco. E certo. Allora, intanto preparatevi e andiamo a sentire dal dottor Mocci. Napoli, dove si trova il dottor Aquilar, che cosa ci racconta, che qualità dell'aria? Purtroppo c'è il sole, ma il particolato è molto alto. È un rosso Napoli oggi, perché addirittura l'altro ieri superava i 100 microgrammi, e con i botti di questa notte sicuramente aumenteranno, perché i fuochi d'artificio contribuiranno all'aumento del particolato e sarà un problema. Infatti sono oltre più di 850 comuni che hanno rinunciato proprio ai botti, e ben venga, non solamente mi sembra giusto, per vari motivi, per vari motivi tra cui anche quello dell'inquinamento. Quindi il dottor Aquilar è pronto con i botti per le nostre emozioni, ma l'aria che tira a Napoli non è assolutamente buona. Milano, dopo il... Nonostante tutto, nonostante i provvedimenti che sono stati presi, ma l'avevamo detto che sarebbero serviti a poco, a un rosso, perché il particolato è 83. E se facciamo una carrellata del nord, sono quasi tutte rosse, perché diciamo i capoluoghi di provincia, di regione, Torino è un 72 rosso, anche Firenze è un rosso, Venezia è un giallo, poi scendiamo a Bari che è un giallo e Palermo è un giallo, quindi un'area un po' brutta in tutta Italia ancora, perché non arriva la pioggia. E quindi... no, ma quanto dovrebbe piovere, tra l'altro, dottor Mocci, per abbattere questi valori? Perché qua stiamo facendo un po' tutti di danza virtuale nelle nostre teste, no? Spieghiamo che arrivi un po' di maltempo, quantomeno per favorire queste condizioni atmosferiche, climatiche e di inquinamento così sconfortanti. Quanta acqua dovrebbe venire giù per ridimensionare... Piovere a sufficienza, perché il problema di queste polveri è che sono persistenti. Perché interrompere il traffico oggi non risolve il problema? Perché noi abbiamo ancora nell'ambiente le polveri che sono state prodotte nei giorni precedenti. Non sono delle polveri persistenti, rimangono lì e basta che passa qualcuno, una folata di piccolo vento, li solleva. Allora ci vuole un bel po' di acqua per lavare via queste polveri, portarle via dall'ambiente. Quindi una bella pioggia sarebbe più che sufficiente. E la neve però, ancora meglio. Sì, ugualmente. Una bella nevicata sarebbe. Basterebbe sicuramente le polveri. Ecco perché, per esempio, il provvedimento che è stato preso ieri, se mi permettete posso dare un giudizio, di intervenire. Intanto è brutto leggere che non è vincolante, quindi se i comuni vorranno, quindi già questo non mi piace. Ma soltanto, si interviene solo dopo 7 giorni che si sono superati i limiti, non è corretto secondo me, perché noi dovremmo intervenire quando nelle città si è già superato i limiti di legge. Sapete che non bisogna superare per più di 35 giorni il superamento dei limiti di legge. Allora Milano, per esempio, soltanto ha superato per 19 giorni i limiti, ma nell'anno, non ci crederete, ma ha superato per la cabina Senato per 100 volte e la cabina Pascal per 90 volte, quindi più del doppio del consentito, dovrebbe triplo. Quindi questi 7 giorni per lei sono decisamente troppi, bisognerebbe intervenire prima, no? Sì, ma molto prima, perché noi siamo già sotto, e questo non lo dicono, ma siamo già sotto procedura di infrazione. La Corte di Giustizia ci ha già condannati nel 2012, noi stiamo pagando circa 9 milioni perché non abbiamo adottato misure di riduzione dell'inquinamento, e abbiamo pagato 9 milioni più 10.650.000 euro al giorno di superamenti. Quindi alla fine noi stiamo spendendo un sacco di soldi. E ci stiamo. Questo è un tema di cuore denari, no? Stiamo spendendo un sacco di soldi, Deborah, per e ci rimettiamo anche alla salute. Esatto. Allora, dato che noi dobbiamo anche poi fare il nostro bilancio, il dottor Aquilar è pronto con il bilancio delle nostre emozioni. Alessandra Rossella, come ci aiuterete a tirare le somme di questo anno? Ma partiremo un po' dal personale, perché come dicevamo negli anni 70 il personale è politico e quindi partiremo un po' dai nostri colori per vedere un po' quali sono i propositi, le idee, gli obiettivi per l'anno prossimo. Allora, dottor Mocci, lei ci aveva promesso una sorta di hit parade delle varie ARPA, non sempre forniscono delle informazioni chiare per il cittadino, ci vogliono degli addetti ai lavori per interpretarli. Allora, facciamo un rapido giro per le ARPA prima di salutarci. Velocissimo, partiamo con quelle verdi ai quali ho dato un voto sufficiente, e sono la Valle d'Aosta, il Piemonte, Lombardia, le ho dato un 8 perché va benissimo, è facile, però manca la possibilità di vedere quanti sforamenti. Il Trentino ha un 7, Alto Adige 7, quindi verdi, Veneto un 6, la scala che hanno scelto di colori è pessima perché si è scelto il celeste, più è celeste più è inquinato, e la gente capisce che più è celeste più è pulito, non più inquinato, mentre col rosso capirebbe meglio. Friuli, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Puglia, Calabria, Sicilia sono tutti verdi, peccato la Sicilia potrebbe fare meglio, a poche centraline, una soltanto a Palermo. Chi fa peggio invece è la Liguria, il Lazio e l'Abruzzo, al quale ho dato un giallo, un'insufficienza, sì. Perché nella Liguria è difficilissimo trovare i dati, nel Lazio è difficile trovare i dati ma non misurano il particolato di 2,5. Che abbiamo detto invece è un dato molto importante. Importantissimo. In Abruzzo difficile da trovare, quindi 5. Il rosso va al Molise e alla Sardegna. Molise perché i dati non sono aggiornati, oggi si possono vedere i dati del 25 e non facili da consultare. Purtroppo mi stringe il cuore perché devo dare un rosso alla Sardegna, che io amo, come penso tanti di noi italiani, amo la Sardegna, però i dati che ci sono, quindi un rosso marcato perché i dati che ci sono risalgono al 21. E vengono dati settimanalmente, non siamo più in tempo. Quindi è una pagella questa che invita le regioni, le ARPA regionali, quelle che sono finite nei colori, no? Sono state un po' bacchettate dal dottor Mocci a fare di più. Buon anno. Dottor Mocci, buon anno, ci sentiamo comunque con l'anno nuovo, perché speriamo che lei ci porti buone notizie con il 2016. Una promozione a pieno campo almeno di alcune città, non dico di tutte. Infatti. Per la salute di tutte le persone, un invito a leggere l'enciclica di Papa Francesco, Laudato Si, perché dal punto di vista ambientale ci insegnerebbe un sacco di cose. Grazie dottor Mocci, buon anno. Buon anno a tutti voi. Voglio vivere a colori, colorare il mio destino. Voglio un giorno senza fili. Allora, abbiamo anche fatto il bilancio della qualità dell'aria, adesso non abbiamo più scuse, dottor Aquila, a fine anno un bilancio ci tocca, il rischio però è di cadere nella trappola di vedere tutto rosa o tutto, non dico nero, un po' grigetto. A proposito di colore, ricordate, proviamo a dare un colore all'anno che sta finendo, lo sottoponiamo ai nostri esperti che ci aiuteranno a fare un po' una riflessione. Dottor Aquila, che dice, è una sorta di scorciatoia quella che abbiamo proposto, perché i bilanci sono sempre un po' faticosi. Certamente, e comunque un colore dà un'idea, anche se alcuni colori hanno dei significati diversi da persona a persona, però certamente quelli che vedessero l'anno che se ne sta andando come un anno grigio avrebbero i loro motivi per essere giustificati sul piano sociale o sul piano ambientale, mentre invece poi c'è un bilancio personale che è più interessante, che può essere più ricco e che molto spesso parte dalla nostalgia. Se c'è qualcosa che ci fa nostalgia dell'anno che se n'è andato, questo è un buon segno, perché la nostalgia è un'emozione che fornisce un senso di connessione sociale, che ci spinge ad avere un senso di appartenenza ad alcuni gruppi e ad alcune persone, e se non viene sopraffatta dal pessimismo, ci aiuta a dare importanza a quelle relazioni personali e a cercare di ricostituire quelle situazioni per le quali proviamo nostalgia. E quindi potremmo cominciare ad osservare la nostra modalità di nostalgia di fine anno, che può avere delle sfumature tristi o delle sfumature speranzose, e potremmo chiedere ai nostri ascoltatori di raccontarci anche com'è la loro nostalgia, se è una nostalgia più triste o una nostalgia più speranzosa di poter avere di nuovo dei momenti positivi, interessanti, significativi e colmi di gioia di relazione interpersonale. Quindi abbiamo aggiunto un'altra parola chiave, nostalgia. D'altronde però il bilancio è fatto di tante voci. Cioè, possiamo mettere il lavoro, poi ci sono gli affetti, la relazione con gli amici, le nostre passioni, e poi li mettiamo un po' in ordine in base alle nostre, no? Al nostro sentire emotivo. Alessandra, tu da che cosa inizi? Ma e poi andiamo da Rossella. Io inizio dalla nostalgia perché sicuramente posso fare un bilancio positivo dell'anno passato, però la nostalgia, devo dire, un tema che in questo momento mi tocca è la nostalgia per l'infanzia, l'infanzia di mio figlio, perché mio figlio è diventato adolescente quindi io ho tanta nostalgia di lui bambino. L'adolescenza è un'età abbastanza tremenda. Le femmine mi dicono, le madri, no, che sono, diventano grandi da un giorno all'altro. Tu le metti a letto che hanno le treccine, la maglietta di Hello Kitty, che ti dicono: mamma, sei la più bella del mondo. La mattina dopo apri la porta, vai via, vado da starda, chiami l'esorcista. È terribile. È, tu hai delle femmine, lo sai. Sì. Invece il maschio, capisci che è diventato adolescente quando entri in casa e senti questo odore di nutria morta e dici: cioè, un topo morto, una nutria. E sono i suoi calzini che marciscono sotto un tavolo, sotto il letto, e c'è Piero Angela che li esamina per scoprire la decomposizione, iris che li analizzano. E quindi insomma, tutto questo fa sì che tu abbia una enorme nostalgia per l'infanzia, anche se poi ci scherzo sopra, in realtà è un'età anche bella l'adolescenza, però faticosa, impegnativa. Penso che tutti i genitori mi capiscano. Allora, genitori all'ascolto, 800 24 00 24, ma anche chi ha contatto, no, con nipoti, figli, certo, di amici, che guarda con nostalgia i tempi in cui erano piccoli, ti guardavano con occhi innamorati. Rossella. Io partirei dall'emozionale, dal vissuto emozionale, quindi nostalgia. Con la parola nostalgia darei un risvolto sicuramente più speranzoso, nel senso che io sono solita guardare alla vita con ottimismo e con, quindi per quello che verte, diciamo, la mia competenza, cioè la musica, il canto, la comunicazione, il dare voce alle nostre emozioni, direi che appunto un buon proposito per l'anno nuovo è quello di ritagliarci sempre di più degli spazi emozionali, degli spazi dove dare voce appunto a, se proviamo una nostalgia, per esempio, questa nostalgia, anziché essere depressione o anziché essere un sentimento triste, si può trasformare in comunicazione. Quindi perché no iscriversi a un corso di canto, guarda caso. Infatti, poi detto da me, chissà perché. No? Però disinteressatissimo. Dottor Aquila, esatto. Tra poco andiamo ai mercati, e tra l'altro non ci sono i mercati, le polveri sottili, sempre festa questi mercati. faremo una piccola pausa, ma dottor Aquilar, meno male che abbiamo invitato il dottor Aquilar, perché in questo gineceo, se no chissà che cosa esatto. Ma mi suggeriva un'idea, Rossella, noi abbiamo, e posso approfondire, sono qui per questo, e noi abbiamo invitato a darci il colore un po' che rappresenta l'andamento del 2015 e magari quello che si augurano caratterizzerà del 2016. Potremmo anche però chiedere ai nostri ascoltatori con che musica, con che brano musicale, con che canzone vorreste chiudere quest'anno e aprire l'anno nuovo. E poi magari tra queste, Rossella, ne qualcuna ne conosce, qualcuna, ce la potrà canticchiare. Allora, dottor Aquilar, lei ci segue sempre, vero? Certo. Per questi bilanci, segno più, segno meno, una linetta, mi sono già stufata a farlo, non lo so, ditecelo voi. Adesso i mercati purtroppo non ci sono. La pausa c'è, ma senza mercati, versione inedita della pausa, tra poco. Cuore e denari. Il trenino no, però metti un po' allegria anche il trenino. Filippo Aureggi sta scappando via. Se ne sta andando, ci sta lasciando il mixer sguarnito, speriamo di no. Invece a me, a Marco Lombardo, il trenino piace. Dottor Aquilar, insomma, dai, ci vuole un po' di trenino, no, alla fine dell'anno? Assolutamente ci vuole un po' di trenino, perché ci conviene fare tutto quello che possiamo per trasformare quello che abbiamo vicino in qualcosa di meglio. E che cosa c'è di meglio del sentirsi in qualche modo uniti agli altri in un percorso che ha un obiettivo? L'obiettivo è quello di ampliare la speranza e, se possibile, di ampliare la felicità partendo dalle cose che abbiamo e dai rapporti più significativi che abbiamo vicino, per poi allargarci anche agli aspetti sociali. Quindi il trenino ci porta verso un lavoro per migliorare nel nostro piccolo le cose che abbiamo intorno e le relazioni personali e sociali importanti. Allora, abbiamo parlato dei botti, con un botto chiuderanno, con un botto di spettatori tra l'altro, Alessandra Verdi stasera e, sì, e Rossella chiuderanno l'anno quest'anno. I botti in oltre 850 comuni sono stati vietati per prevenire rischi all'incolumità delle persone, anche di evitare di aggravare peggiorando ulteriormente la qualità dell'aria delle nostre città e non ultimo per proteggere gli animali domestici. Ma il dottor Aquila preparato per noi i suoi botti, come ci racconteranno anche i botti Alessandra e Rossella. Dottor Aquilar, un botto potrebbe essere la nostalgia, a cui lei ha già accennato. Quindi l'altro botto è la tristezza. Per alcune persone fine anno è un momento di grande tristezza, che in parte è anche ragionevole, perché la tristezza è l'emozione che ci fa rendere conto di quello che ci manca, delle persone che ci mancano e degli aspetti di noi che in qualche modo abbiamo smarrito. Per esempio, potremmo avere smarrito l'allegria, potremmo avere smarrito il significato delle relazioni sociali, potremmo aver dedicato troppo tempo al lavoro o troppo tempo alla rimuginazione. Ma anche il botto della tristezza può essere riutilizzato in positivo, perché ci aiuta la tristezza, come si è visto anche nel film Disney Inside Out, ad avere un obiettivo, ad avere quindi l'obiettivo di recuperare persone, relazioni e obiettivi significativi e di cercare di raggiungerli proprio per non sperimentare più quella sensazione di tristezza. Sì, è importante, che infatti è molto bello il riferimento al film, anche a me ha colpito, perché spesso noi tendiamo, no, a dire no, è tutto a posto, a semplificare e a non toccare fino in fondo anche gli aspetti dolorosi della vita. Lo dice una caratrice comica che quindi ha fatto del ribaltamento della tristezza anche una professione. Ma dietro, come sanno tutti i comici, dietro alla comicità c'è sempre un aspetto amaro, c'è sempre un aspetto contraddittorio. La comicità non esisterebbe se non esistesse la tristezza o le problematiche umane, perché è proprio sulle problematiche umane che si esercita l'umorismo, la capacità di prendere le distanze e di trasformarle in risata. Però non esiste risata senza l'altro lato della medaglia, quindi assolutamente quello che dobbiamo fare è porci in maniera positiva, ma senza rimuovere, senza negare gli aspetti oscuri, problematici o dolorosi, ma sapendoli trasformare, magari anche con una sana presa di distanza grazie all'umorismo. Infatti l'umorismo, e io aggiungerei anche autoironia, no? Perché se possiamo ridere di una cosa possiamo anche cambiarla. Cioè, mi era appuntata questa frase di Oscar Wilde, che scriveva che l'umanità si prende troppo sul serio, è il peccato originale del mondo. Se l'uomo delle caverne fosse stato capace di ridere, la storia sarebbe stata diversa. Dottor Aquilar. Sono d'accordo, Oscar Wilde era napoletano probabilmente, cioè nel senso che noi abbiamo la cultura. Dal cognome non si direbbe, però tutto può essere, magari. Avendo avuto molte dominazioni, siamo abituati dal punto di vista culturale a prenderla con ironia, perché altrimenti la sopraffazione che si subisce è terrificante. Ed ecco perché l'ironia è il fattore d'innesco principale poi della speranza, che non è una cosa volante. La speranza è una cosa molto ben studiata dagli psicologi sociali, e la speranza è composta da emozioni, cioè dobbiamo stare attenti a riconoscere le emozioni, come dice il titolo del mio libro che ormai è giunto alla terza edizione, e dobbiamo trovare dei significati e soprattutto dobbiamo difendere l'etica. La cosa interessante delle ricerche è che le persone che hanno un'etica sono più speranzosi, e quindi, contrariamente all'idea dell'abbandonarsi al pessimismo del non ci sono più valori, tocca che ognuno di noi ricostituisca la sua etica e cominci a vivere secondo quest'etica alla quale crediamo, e non lasciarla cadere come se fosse un valore ormai desueto e che non può essere realizzato. Queste tre cose aiutano ad avere una speranza fondata che porta poi ad un miglioramento reale della vita quotidiana. Vedi che il dottor Aquilar, anzi senti Deborah, che il dottor Aquilar ci ha dato già uno spunto per un buon proposito, perché poi apriremo con i buoni propositi per il 2016, è un classico, no? Primo gennaio ti svegli e dici allora da quest'anno faccio, non faccio, eccetera. Poi la stessa cosa magari dopo un mese, hai visto, se tiri le somme, altro che il dottor Aquilar, c'è bisogno di qualche cosa di molto. Allora, dottor Aquilar, nostalgia, tristezza, speranza, e c'è un altro botto che possiamo suggerire? Etica. E come no, il botto finale è quello della progettazione elastica. Proprio per evitare di essere sopraffatti da pessimismo e tristezza anche per tutte, come dire, le notizie mondiali che ci sono in questo momento, noi possiamo cominciare a fare una progettazione elastica di quello che faremo, che non è la solita progettazione di fine anno, da dopo la Befana mi metto a dieta, poi farò un'alimentazione migliore, poi dedicherò più anche tempo alle persone. Anche però, dottor Aquila, anche. A meno che abbiamo mangiato dei panettoni vegani, quindi non so. Anche, ma in un modo serio, perché in genere questi propositi del 6 gennaio poi il 10 già sono dimenticati. È vero. Quindi in qualche modo, affinché siano dei propositi ideali e non soltanto un prendersi in giro da soli, possiamo provare ad utilizzare Capodanno e il nuovo anno per una progettazione elastica, perché poi dipenderà dagli avvenimenti esterni, di quello che ci interessa di più. È per questo che io inviterei tutti i nostri ascoltatori a fare un attimo una classifica dei loro valori reali, quelli che sentono dentro, e invitarli a utilizzare il loro tempo seguendo questi valori che sentono all'interno e non lasciandosi trascinare dal tran tran quotidiano e dall'addormentamento della coscienza che spesso si osserva in alcune persone. In realtà quindi il migliore augurio di Capodanno e la progettazione elastica che io suggerivo come ultimo botto hanno l'invito a stare svegli, e per questo simbolicamente il veglione è una cosa che ci suggerisce un messaggio importante. Dobbiamo stare svegli nella nostra vita quotidiana, dobbiamo stare svegli nella nostra settimana, dobbiamo stare svegli e dedicare tempo reale alle persone che sono a noi care, cominciando da stasera. Mi piace, questo è Sono Rossella, assolutamente vero? D'accordo, sì, volevo ci sta conquistando aggiungere. Il dottor Aquila, nonostante uomo. Che tutto quello che sosteneva il dottore, la nostalgia, la tristezza, sono sentimenti appunto importanti, è importante riconoscerli, e nel canto infatti funziona proprio così, dipende da quello che si canta. Il blues, per esempio, nasce come espressione di... cioè è proprio l'emblema della... sentimenti, come nasce dagli schiavisti, quindi queste povere persone che erano state deportate, che lavoravano il cotone, che quindi si sono inventati questa forma molto primitiva di canto, fatto di chorus, di ripetizioni, che nasceva per far sì che ci fosse una comunicazione viva tra loro, che si potesse tramandare, quindi che rimanesse viva la comunicazione, ma che allo stesso tempo potessero comunicare questa sofferenza, questa nostalgia. Quindi riconosciamo l'emozione che abbiamo e possiamo, si può cantare, si può comunicare qualsiasi, non solo la gioia, ma anzi la tristezza. Il blues, per esempio, aiuta moltissimo a far sì che cantandolo possiamo alleviare magari le nostre sofferenze. Vedi, il sole, non a caso, il sole si dice, canta che ti passa. Esatto, chissà se canterà qualcosa Daniele da Reggio Calabria, perché qua degli ingredienti del nostro veglione diventano tanti, perché devi avere delle persone con cui stai bene, devi fare un po' pace con te stesso, esatto, devi avere una buona musica che ti rappresenti, devi metterti un qualcosa di rosso, qualcosa di rosso, devi buttare qualcosa di vecchio. Per mangiare fortuna non abbiamo ancora introdotto l'argomento calorie qua. Posso dire qualcosa sui propositi o dobbiamo affrontarli dopo? Come vuoi, inizia a dirlo, perché abbiamo Daniele, chissà se li fa, perché li abbiamo invitati a allora, intervenire. Sentiamo Daniele e poi vi dico i miei propositi. Daniele, buongiorno da Reggio Calabria. Buongiorno. Auguri. Ciao, buongiorno Deborah, anche a lei. Buongiorno Nicoletta, come state? Noi stiamo bene. Ottimamente, cara. Ha fatto bene venirci a trovare. Daniele, allora. Meno, ma a parte che mi volevo collegare al discorso del blues, che sono un amatore del blues e sono d'accordo. Accidenti, con la signora sentiamo di prima. A parte il blues, poi magari si passa al rhythm and blues, si passa al soul, in modo che prima si parte con la tristezza e poi si ha la gioia nell'ascoltare le altre musiche. Ed è bellissimo. Ha già fatto questo percorso, bravo. Sì, assolutamente. È arrivato alla progettazione elastica, vedi, le ha fatti già tutti. Grazie, Daniele, ci racconti perché vogliamo sentire come passerà l'anno e che buoni propositi ha per il 2016. Questo, purtroppo questo è un tasto doloso, perché praticamente io vivo a Reggio Calabria, quindi la città che ormai ultimamente pure nelle statistiche è la regione, è la città più povera d'Italia, e purtroppo è una realtà vera. Io ho tre figli, sono disoccupato da un paio di anni, non da un giorno, quindi è una trafila assoluta, mi credo, dalla mattina alla sera. Ho dei problemi seri e quindi purtroppo l'unico colore che mi viene in mente per vestirmi a Capodanno è il nero, bruttissimo da dire, però purtroppo è così. Ha ragione Daniele, perché la situazione è difficile. Il dottor Aquilar forse ci può dare una mano. Daniele racconta una realtà molto dolorosa, è senza lavoro da 3 anni, vive in una città che non offre sicuramente, Deborah, no? Magari delle opportunità, però ha una voce calda, piena di buoni auspici, non so come dire, forse inconsapevole, però in questo senso non è una persona che tutto sommato si abbatte completamente, Daniele, non è portatore di un messaggio totalmente negativo. Dottor Aquilar. Ma intanto io direi anche a Daniele, del quale apprezzo la lucidità con la quale fa l'analisi della sua situazione, comincerei con un proverbio americano che sembra fuori luogo in questo momento, ma che io trovo straordinariamente saggio. E il proverbio americano dice: trova quello che ti piace fare e poi trova qualcuno che ti paghi per farlo. Io ci ho fatto tutta la mia vita su questa massima. Ho fondato la mia vita su questa massima. Esattamente. Ecco perché anche in questo, ma lo dicono anche tutti gli studi e le ricerche sul campo, nel momento in cui c'è questa difficoltà di lavoro, noi dobbiamo in qualche modo nutrire la creatività. E per nutrire la creatività dobbiamo cercare di stare attenti a quello che ci piace fare, ma non una sola cosa, perché altrimenti quella unica cosa potrebbe essere difficile da realizzare per la situazione contingente. Proviamo a cercare 4, 5, 10 cose che ci piace fare e poi vediamo se su una di queste 10 troviamo qualcuno che ci paghi per farlo. Mi sembra un'ottima idea. 10 cose, le analizziamo. Tra queste 10 cose una la troveremo, ed è l'augurio che facciamo naturalmente a Daniele per il 2016 e alla sua famiglia. Adesso noi ci fermiamo. Traffico, sentiamo un po' se si sono già messi in moto per raggiungere i nostri amici che ci seguono, le città del proprio veglione, del proprio festeggiamento di stasera. E poi buoni propositi. Cuore e denari. Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. Ecco, possiamo scrivere ad un amico, ma possiamo anche scrivere magari su un foglietto i buoni propositi per il 2016. Ogni anno ci ricadiamo, ma intanto il dottor Aquilar ci ha dato già qualche indicazione per evitare che i buoni propositi che facciamo il primo gennaio già con la Befana vadano, no? Sì, siccome io sono stufa di fare sempre questi buoni propositi che poi durante l'anno non riesco a realizzare, mi sono stancata. Perché tu senti poco cuore denari. Può darsi. Sì, non è vero, perché lo sento invece. Allora ho deciso di fare i buoni propositi al contrario, cioè se io mi pongo come obiettivi il contrario di quello che è giusto fare, forse riesco a realizzarli, tipo non mi metto a dieta, non andare in palestra, litigare con mia madre, litigare con mio figlio. Se io mi pongo i propositi al contrario, sicuramente riesco a realizzarli. Se invece pongo quelli giusti, è una frustrazione continua, quindi forse quest'anno io farò i propositi al contrario e finalmente li realizzerò tutti. E l'autostima si impenna. L'autostima si impenna, perché l'autostima poi è fondamentale. Bisogna solo trovare il modo proprio autonomo, individuale, per realizzare l'autostima. Se uno si realizza realizzando propositi anche che la maggioranza definisce negativi, l'importante è il risultato raggiunto, insomma, diciamolo. Allora, dottor Aquilar, non so se è ancora in linea o sta già venendo a Milano per occuparsi di un caso serio. sono d'accordissimo. In psicoterapia questa si chiama prescrizione paradossale. Vede? È una tecnica che viene molto utilizzata. Diamo il compito di fare il contrario di quello che la persona vorrebbe fare, e a quel punto può darsi che la persona, non sentendosi più gravata dall'obbligo, e tra l'altro per reattanza psicologica, cioè per ribellarsi a quello che è l'ordine che in questo caso si è autoimposto, poi fa le cose che dovrebbe fare. Quindi è un trucco che conosciamo benissimo e sono totalmente d'accordo. È quello di Vaclavic, vero? Esatto, di Vaclavic, di Milton Erickson, perché il primo ideatore di questo è stato Milton Erickson, poi Vaclavic l'ha sviluppato. Infatti il libro era Istruzioni per rendersi infelici, quindi un paradosso attraverso cui, facendo appunto il contrario, ho fatto studiarti. Uno pensa è una comica, è una cretina, invece ha studiato, voglio dire. Perché per far ridere bisogna anche sapere, non solo bofonchiare delle stupidaggini, anche quelle però, perché fanno ridere anche le stupidaggini, e bisogna anche essere cretini, come insegno ai miei allievi. Il primo trucco per essere comici è lasciarsi andare all'infantilismo, alla stupidera che abbiamo. Quindi la comicità è bella perché è anche un insieme di elementi, dalla ricerca psicologica, mentale, al paradosso, all'ironia, all'analisi delle discrepanze, alla satira sociale, ma anche alla stupidità, alla caduta sulla buccia di banana, la smorfia, la follia, il full, anche shakespeariano, insomma c'è un po' di tutto. E la buttata lì, vedi? Stupidità e mi guarda, io non che non ho fatto studi alti, i cantanti cantano così. No, voi proprio. Non è vero. Scherzo. No, si scherza, si fa appello all'autoironia, alla comicità, al distacco, alla consapevolezza, ma diciamo, non vorrei prendere una piega triste, ma quando le cose non vanno bene, quando ci sentiamo a pezzi, il lavoro manca, si interrompe una relazione importante, allora è difficile fare ricorso a tutte queste opportunità che hanno il placet della ricerca, che sappiamo funzionano, ma dottor Aquilar, non ce la si fa. Beh, ci vuole del tempo però. Ecco. No, e poi bisogna legittimare le emozioni negative, sono importantissime, perché sì, sono quelle che ci faranno da bussola per evitare di ripetere gli stessi errori e per dare maggiore attenzione alle cose che per noi sono importanti e che magari, poiché prima ci eravamo distratti, le abbiamo perse per strada. Ecco perché nella progettazione del nuovo anno, malgrado, ripeto, la contingenza che sembrerebbe amara per molti aspetti, può valere la pena di invitare le persone a muoversi verso la trilogia della felicità. E anche questa non è più soltanto una tematica lasciata ai poeti o ai letterati, ma gli psicologi ci hanno lavorato molto a lungo, e le tre componenti della felicità, cioè aspetti che ce le segniamo, perché un attimo posso stenografare se occorre, sì, perché allora dottor Aquilar, andiamo piano piano, perché gli psicologi ci hanno studiato anni e anni. Ecco, poi lei adesso ci fa un piccolo bignamino ad uso, no, personale, pratico soprattutto. Noi siamo qua che scriviamo trilogia della felicità per il 2016. Vada. Tre aspetti, è proprio facile, ne ho parlato anche nel Daily Lab di Nicoletta Carbone, che consiglio ai nostri ascoltatori di andare a leggere. Bravo, ecco. Ok, andiamo. E sono tre: appagamento, gioia e assenza di angoscia. Cioè noi dobbiamo cercare di impegnarci per svolgere delle attività che ci diano appagamento. E anche qua non dobbiamo sceglierne una sola, che se poi non va bene ci lamentiamo per i 366 giorni del prossimo anno bisestile, ma più attività, e tra queste 10 attività almeno una ci deve fornire appagamento. E nel momento in cui noi viviamo un senso di appagamento, questo ci cambia l'umore e ci predispone ad essere più disponibili alle interazioni sociali, anche con il nonsense, come si diceva prima. Lo scherzo, il nonsense, il calambur sono importantissimi perché abbassano la tensione interna e formano un legame su un lato indiretto con le persone care. Secondo, la gioia. Malgrado sia un'emozione che apparentemente non si possa raggiungere intenzionalmente, ma anche la gioia richiede impegno. Cioè dobbiamo utilizzare, per esempio, il nostro tempo sacrificandone una parte ai doveri per prenderci qualcosa che ci dia gioia, e dobbiamo renderci conto di quello che ci dà gioia. Come diceva il profeta Coelet, lavora saggiamente e duramente dall'alba al tramonto, ma dopo il tramonto mangia, bevi e fai festa. E il terzo punto è l'assenza di angoscia, cioè fare delle azioni per ridurre la nostra angoscia, cercando di capire che cosa ci dà angoscia. se l'angoscia ci viene data dalla solitudine, dobbiamo intervenire per mantenere più rapporti sociali. Se l'angoscia ci viene dalle preoccupazioni per la salute, dobbiamo scegliere un medico che sia capace di tranquillizzarci. Se l'angoscia ci deriva dall'aver lavorato troppo, dobbiamo prenderci un po' di tempo per riposare. Se l'angoscia ci deriva dalla rimuginazione, dobbiamo staccare il pensiero e metterci a fare anche semplicemente un puzzle, qualcosa che stacca rispetto al continuum quotidiano. Ecco perché la ricerca della felicità come appagamento, gioia e assenza di angoscia potrebbe essere, secondo me, una buona progettazione per il 2016. Guardi, con Deborah, come dici tu, me li stampo? No, me li incido sulla pietra. Appagamento, gioia, assenza io di angoscia. Io me li tatuo su un braccio oggi. Vado a farmi tatuo. Altre idee per fissarli bene in testa? Ne abbiamo? Non ne ho altre. Io faccio un tatuaggio. Comunque poi, diceva una cosa interessante, anche quella sulle 10 attività. Anche perché oggi è necessario avere almeno 2 o 3, 4, 5 lavori, uno non ti basta più, anche sul fatto economico. Guardate me che faccio l'attrice, poi insegno, faccio i libri, ecco, no, a parte gli scherzi, è vero che anche l'idea che si aveva un po' di tempo fa, no? Che noi facciamo questo mestiere, in realtà allargare le nostre creatività ci permette di allargare gli orizzonti, certo. Ma anche economicamente di guadagnare di più, perché oggi è anche a volte necessario fare più cose. Non possiamo più limitarci. È una cosa che ci insegna anche la donna di Denari. Parola d'ordine? Diversificazione. Vedi. Allora, abbiamo un minutino e mezzo, mi dice Filippa Oreggi, per chiudere questa... In allegria, per un fare po' il botto. Con un botto. Esatto. Rossella. E allora l'ultimo, il botto proprio finale, di chiusura di Cuore Denari, oggi è il 31 e esatto. Quindi di questo... Ricordiamo di questo solo che anno. Questa sera... Siamo al Teatro Verdi. Ma che ormai? Ormai tutto esaurito, però secondo me possono tentare, magari mettersi in lista d'attesa o... Un bissino potrebbe essere possibile. Potrebbe essere, comunque sia, se qualcuno in ascolto ha già intenzione di venire, ci vediamo al Teatro Verdi di Milano con Alessandra Faiella e Rossella Bellantuono. Rossella, e lì tu ci saranno anche delle tue canzoni. Sì, sarò l'ospite musicale di Alessandra, sono molto onorata di questo. E non solo musicale, perché faremo insieme anche degli sketch. Farò con Alessandra dei piccolissimi sketch, si può anticipare, si può dire, sì, dove mi calerò in una imitazione della grandissima Vanoni. Con cui possiamo chiudere questa nostra trasmissione. No, pensavo prima alla seconda casa, no? Che io ho la seconda casa su Giove, come fare per dichiarare? Diciamo la, cioè non saprei, ci devo pensare. No, diciamo. Lei la seconda casa c'è la cortina. Sì, ma da un pezzo quella. Allora, dottor Aquilar, intanto la saluto prima di salutare Alessandra e Rossella. Le auguro un buonissimo anno. Grazie, dottor Aquilar. Auguri a presto. A tutti, arrivederci. Arrivederci. E allora, buon anno, Rossella, buon anno. Alessandra. Facci un... Io volevo... Non si può, no. Perché no, va il GR. Neanche un happy day. Nicoletta, buon augurissimi. Anno. Buon anno, Deborah. Auguri, allora. Buon anno. Happy day! Oh.